in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani e cominciamo come sempre dalle prime pagine, iniziamo dal Corriere della Sera che ha una foto notizia con Pirlo abbracciato da un compagno di squadra. La notizia la conoscete tutti, è quella della Barcellona che ieri ha battuto nella finale di Champions League la Juventus 3-1, il titolo è il Barca di Messi spegne il sogno e le lacrime di Pirlo, con tantissimi commenti alle pagine pensate 38 a 43, quindi 5 pagine di commenti su questa partita e di analisi, e poi anche un'analisi di Marcello Lippi, Super Buffon, un gigante. Ma in realtà il titolo principale del Corriere della Sera riguarda le tensioni tra Stati Uniti e Russia. Sapete, c'è in corso oggi e domani il vertice del G7 a Monaco di Baviera, i grandi del pianeta, e il convitato di pietra è un po' la Grecia, perché questa è l'altra grande incognita in questo momento, però ci sono di nuovo gli ennesimi venti di guerra. Il Corriere della Sera intitola nell'occhiello questo articolo Europa contesa, infatti il Pentagono, perché tensioni USA-Russia? Perché ieri il Pentagono ha detto che risponderemo alle violazioni, si riaccendono quindi le tensioni nell'Europa orientale. Un altro titolo di prima pagina che poi, di cui poi vedremo magari un approfondimento se c'è tempo, è un'intervista al governatore Luca Zaia. Luca Zaia è stato rieletto governatore settimana scorsa con, sapete, un vero e proprio plebiscito, governatore del Veneto, e l'intervista che gli fa il Corriere della Sera riguarda soprattutto gli immigrati, perché ieri sapete la notizia che sono stati salvati 3.000 immigrati che erano alla deriva e saranno nel canale di Sicilia, saranno portati in Italia, sono 15 barconi, e la sintesi dell'intervista che Zaia ha dato al Corriere è: in Italia non c'è più posto. La Repubblica titola invece su Renzi, perché la Repubblica ancora oggi è in corso questo ciclo di incontri che la Repubblica fa scegliendo delle città diverse, questa volta la città scelta è Genova, sono degli incontri che durano in genere 2 o 3 giorni, si chiamano Repubblica delle Idee, dove appunto vengono allestiti dei palchi e intervistati personaggi, soprattutto personaggi politici o comunque protagonisti della società, intellettuali. Ieri a Genova è andato Renzi e si è fatto ampiamente intervistare, l'avrete visto anche nei telegiornali, moltissime dichiarazioni riguardano la riforma della scuola, su cui ha detto: rimedierò agli errori che ci sono nella riforma, e poi niente pietà per i corrotti. Quindi questo è un po' il titolo, poi naturalmente tantissimi approfondimenti. La fotonotizia è sulla partita di ieri sera, però questa volta la Repubblica, mentre il Corriere ha usato 2 giocatori della Juventus, la Repubblica invece mette una foto dei giocatori dei Blaugrana, cioè con le loro maglie rosso-blu, potremmo dire rosso-porpora e blu, che esultano, e il titolo è: il cuore non basta, il Barca spegne la Juve. Il commento è di Gianni Mura, all'altezza del sogno. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, che titola sul convegno dei giovani di Confindustria che è in corso a Santa Margherita Ligure, e con le dichiarazioni di Giorgio Squinzi. L'altro ieri, sapete, era intervenuto Marco Gai, il presidente dei giovani di Confindustria. Ieri ha fatto un lungo intervento il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Il titolo scelto dal Sole 24 Ore per sintetizzare il pensiero di Squinzi è: abbiamo un disperato bisogno di crescere. Ieri c'era anche il ministro per le riforme Maria Elena Boschi a Santa Margherita, e su quello che è la class action, che sapete è quella forma di azione legale che raggruppa molte persone che hanno uno stesso interesse, e in Italia di fatto una legge sulla class action non c'è, e Maria Elena Boschi su questo, che è un tema abbastanza caro a Confindustria, perché spesso queste class action vengono fatte contro delle aziende, possono essere molto pericolose per la salute delle aziende stesse, sapete, con i risarcimenti miliardari che vediamo a volte anche negli Stati Uniti. La Boschi ha detto: la class action non è una priorità, cambieremo al Senato, perché questa riforma è una delle tante messe in cantiere dal governo Renzi. Sulla Juventus c'è un articolo di Marco Bellinazzo, che sapete, lo conoscete qui a Radio 24, interviene spessissimo, è proprio il nostro esperto di calcio e di tutti la parte economica del calcio, anche un esperto di bilanci di società di calcio, ma anche naturalmente un appassionato di calcio. E allora il titolo: la Juve perde ma comincia una nuova era. E vi leggo una parte di questo articolo che poi continua a pagina 15. La scalata della Juventus, tornata a contendere a Barcellona il più prestigioso trofeo continentale dopo oltre 10 anni, è il meritato epilogo di un percorso di ricostruzione di una squadra e di un club che, guidato da ottimi dirigenti e sostenuto dalla Exor della famiglia Agnelli, ha saputo tornare a essere il faro del football tricolore. Lo stadio di proprietà è l'esempio più lampante e ha visto crescere il proprio fatturato di oltre l'80% fra il 2010 e il 2014. La consueta lettera all'investitore che c'è ogni domenica sul Sole 24 Ore, dove sapete il collega di finanza Vittorio Carlini prende in esame un titolo quotato e il bilancio di questo titolo quotato e cerca di fornire agli investitori indicazioni sul perché comprare o non comprare questo titolo. Oggi le azioni prese in considerazione sono quelle della Diasorin, un'azienda delle biotecnologie, delle tecnologie mediche, Cina e USA strategici per il business dei test diagnostici. Questa è la sintesi, poi trovate tutte le analisi a pagina 16. Naturalmente grandi approfondimenti, come vedremo, anche sul 16 giugno, che è un po' il tax day pre-estivo, perché è il giorno in cui tutti dovremo pagare IMU e TASI, e quindi tutte le indicazioni poi sono a pagina 17 del Sole 24 Ore. Prima pagina del Messaggero. Qui la fotonotizia dedicata a quei barconi di cui parlavamo: soccorsi 3.000 migranti, verranno tutti portati in Italia. E poi il titolo principale però è dedicato all'inchiesta di Mafia Capitale. Il Messaggero è il vero quotidiano di Roma, dico vero perché anche Repubblica è un quotidiano romano, però il Messaggero è proprio quello storico di Roma, e quindi naturalmente il titolo su questa inchiesta che sta sconvolgendo la politica romana. Mafia Capitale, il premier: si poteva fare di più, ma non si lascia per un avviso di garanzia. Il riferimento naturalmente è al sottosegretario, che è stato appunto sottosegretario all'agricoltura del governo Renzi, che è stato raggiunto da un avviso di garanzia, ma come è accaduto già in altri casi, Renzi ha detto non è per questo che deve lasciare. Come vedremo più tardi, poi anche su altri giornali, c'è un approfondimento sulle elezioni in Turchia. Il Messaggero è uno dei pochi giornali che le richiama in copertina: Turchia al voto, la sfida di Erdogan. La Stampa naturalmente ha la fotonotizia dedicata alla partita di ieri sera, anche in questo caso è un abbraccio tra Paul Pogba e Andrea Pirlo, che appunto in lacrime a fine partita. Il titolo: una Juve guerriera non basta col Barca, bianconeri subito sotto, lottano, pareggiano, poi cedono. E anche qui tantissimi tantissimi articoli. Un accenno in prima pagina alla visita del Papa ieri a Sarajevo: nel mondo c'è un clima di guerra, queste le parole che abbiamo sentito anche nel GR del Papa. E allora vediamo la prima pagina dell'Avvenire, dedicata naturalmente alla visita del Papa a Sarajevo. Il titolo: il lavoro della pace, con appunto le altre parole dette ieri da Papa Francesco a Sarajevo: dialogo e non grida d'odio, la convivenza si edifica con ricordo e perdono. Intensa visita nella capitale bosniaca, simbolo di convivenza e poi del conflitto più feroce. Mai più la guerra, no, scontri di civiltà. Naturalmente c'è anche la concomitanza con l'anniversario dell'assedio e del genocidio di Srebrenica, dove in pochi giorni furono uccisi 8.000 musulmani. La prima pagina della Gazzetta dello Sport è tutta dedicata alla Juventus, e con quella stessa foto di Pogba che abbraccia Pirlo. Il titolo: a testa alta, la Champions è del Barcellona. E poi un commento del direttore della Gazzetta Andrea Monti, che tra l'altro è interista, ma giustamente ha anche rinunciato a essere di parte, lo aveva dichiarato anche all'inizio della sua direzione della Gazzetta, e quindi il suo titolo: Juve, grazie lo stesso. Il Secolo XIX ve lo segnalo perché ieri c'è stato questo incontro, abbiamo detto Renzi era a Genova, ne ha approfittato per incontrare il neo governatore della Liguria, Giovanni Toti, patto in Liguria. Sono andati insieme a visitare il Bisagno, uno dei torrenti che ha provocato l'alluvione, e si sono un po' promessi reciprocamente di collaborare sulle emergenze e anche naturalmente su tutte le questioni del dissesto idrogeologico, che in Liguria è da sempre una emergenza, ma purtroppo non una priorità dei politici. Il manifesto, il capitale sociale, qui il riferimento è al battesimo che c'è stato ieri da parte del segretario della FIOM Landini al suo partito, movimento, non si sa ancora bene come chiamarlo, comunque si chiama Coalizione Sociale, è appunto una nuova iniziativa sicuramente politica del segretario della FIOM. Libero titola sulle tasse, abbiamo detto il Tax Day del 16 giugno con questa doppia scadenza, IMU e TASI, come non sbagliare. Il giornale invece ha una si concentra sull'inchiesta di Mafia Capitale e il titolo è Alfano ministro azzoppato, dopo 48 ore il leader di NCD sempre più difficoltà, tace ancora sul caso Castiglione. Castiglione è il sottosegretario di cui parlavamo prima, ha raggiunto da un avviso di garanzia per una questione legata all'inchiesta Mafia Capitale, che è appunto del nuovo centrodestra di Alfano, ed effettivamente da 48 ore il ministro dell'interno non ha ancora rilasciato, a 48 ore dall'avviso di garanzia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla questione, mentre abbiamo visto per esempio Renzi l'ha fatto, ha detto non ci si dimette per un avviso di garanzia. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, anzi proprio su quella de Il Giornale, che aveva il titolo dedicato ad Alfano, ministro dell'interno, definito ministro azzoppato. E qui c'è un articolo di Vittorio Feltri, è vero che l'ironia insomma va sempre un po' dosata, però questo è veramente un articolo gustoso, ve ne leggo la prima pagina, è naturalmente molto ironico e anche molto critico nei confronti di Alfano per questo silenzio a 48 ore dall'avviso di garanzia che ha raggiunto il sottosegretario all'agricoltura Castiglione, che è del suo partito, il nuovo centrodestra. Scrive Vittorio Feltri: quello che mi accingo a scrivere non è un articolo di politica in senso stretto e neppure largo, tratta semplicemente di un resoconto inquietante di quanto è accaduto e continua ad accadere nel palazzo, dal quale si evince, con rispetto parlando, che la sfiga di certi uomini pesa maggiormente delle loro capacità. Prendiamo Angelino Alfano, già delfino di Silvio Berlusconi, ora demiurgo, esagero, dell'NCD, che non è la marca di un elettrodomestico, bensì un partito piccolo e deficiente. Tant'è che Matteo Renzi, nato grande e avviato a diventare nano, lo considera più o meno come il cavaliere giudica Dudù, un animale politico domestico. Angelino non è una cattiva persona, abbaia molto ma non morde, al massimo ringhia quando qualcuno minaccia di sottrargli la pappa. A un certo punto la carriera, rapida e invisibile come un sommergibile, Angelino viene nominato caporale, pardon, capo di Forza Italia. Era un momento particolare, Silvio cominciava a non poterne più di ricevere ad Arcore, a Palazzo Grazioli, file e file di questuanti in cerca di poltrone, raccomandazioni, soldi, patacche, incarichi, eccetera, cosicché decise di promuovere a segretario suo personale e del partito, per finta, l'avvocato Angelino, e gli scaricò addosso tutte le scocciature che lo ammorbavano, rendendolo nervoso. E così insomma Feltri ricorda all'inizio appunto della parabola di Alfano, che poi sapete lasciò il Forza Italia per fondare il nuovo centrodestra, e adesso è stato colpito, ma è solo l'ultima secondo Vittorio Feltri di una serie di appunto tra virgolette sfortune, è stato colpito da questa vicenda del sottosegretario Castiglione, raggiunto da un avviso di garanzia per la gigantesca inchiesta Mafia Capitale. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, e in questo caso è dedicata anche in questo caso è dedicata a Mafia Capitale. Il titolo: la cassa si tiene i soldi e gli uomini. Perché questo titolo? Perché scrive il Fatto, è stata ancora rinviata la trasparenza dei partiti sui bilanci, che sapete viene chiesta da più parti, finanziatori e cene elettorali. Perché se ne parla? Perché a Roma queste cene elettorali hanno coinvolto in passato molti dei personaggi che adesso sono gli stessi nomi che compaiono o sono addirittura già in carcere nell'inchiesta Mafia Capitale. Un articolo, anche un richiamo in copertina anche ampio, abbiamo visto alla presentazione ieri della Coalizione Sociale di Landini. Renzi si sceglie Salvini, questa è la sintesi del Fatto Quotidiano. Landini invece ora pensa alle sedi, perché come abbiamo detto questa Coalizione Sociale assomiglia sicuramente a un partito, quindi avrà bisogno anche di un radicamento sul territorio e quindi di alcune sedi. Ma veniamo alle pagine interne. Vi dicevo l'intervista di Marco Imarisio al governatore del Veneto Luca Zaia, che lancia questo allarme sul fatto che è difficile continuare ad accogliere i migranti. Il titolo: il Veneto sta per esplodere, non c'è posto per altri arrivi. È ipocrita pensare che le caserme dismesse siano una soluzione. Vi leggo alcune domande e risposte che Imarisio fa a Luca Zaia. Il passo Dice Marisio, lasciamo morire gli immigrati in mezzo al mare? E Zaia risponde, qui mi arrabbio e tanto, non ci sto a passare per meschino a causa di un governo che si è fatto bidonare in ogni modo dalla comunità internazionale. Le vite umane si salvano, senza se e senza ma, non si discute. Chiede Marisio, il passo seguente non dovrebbe essere quello di trovargli un tetto? Fino a quando è possibile farlo? In Veneto abbiamo 514.000 immigrati regolari, pari a quasi l'11% della popolazione. Di questi, 42.000 non hanno un lavoro. Insieme a Emilia Romagna e Lombardia siamo i più accoglienti. Basta. E Marisio chiede ancora, anche voi avete detto sì al sistema delle quote? Questo lo dice Alfano, sapendo di mentire. Già durante l'emergenza della primavera 2011 fui l'unico che si rifiutò. Non ho cambiato idea. In Veneto la gestione venne affidata ai prefetti. Lo scorso 14 luglio, alla conferenza delle regioni, abbiamo anche messo su nero su bianco il nostro dissenso. E vedremo, insomma, nei prossimi giorni, perché gli immigrati, appunto, al di là delle parole di Zaia, di Alfano e di tutti noi, continuano ad arrivare e bisogna trovare una soluzione, come dice anche lo stesso Zaia, salvarli e poi però salvati e portati e arrivati fino alle coste, bisogna trovare appunto una soluzione. Vi segnalo sempre dal Corriere della Sera una pagina interna molto interessante di Stefano Agnoli, la pagina 17, tutta dedicata al petrolio. Sapete che una delle grandi condizioni favorevoli macroeconomiche di questo momento, oltre al fatto che l'euro sia finalmente indebolito sul dollaro, è che il prezzo del petrolio è molto sceso. E allora un'analisi per capire dove si va da qui. Dalle quotazioni del greggio dipende la spinta o lo stop alla ripresa. La battaglia tra sauditi e produttori USA di shale oil, sapete quello ottenuto con questa tecnica appunto che un po' molti ambientalisti contestano, comunque è sostanzialmente un far tremare la terra, può far scendere i prezzi sotto i $60 al barile. Ci sono anche le due parole chiave, appunto OPEC, l'organizzazione il cartello dei paesi produttori di petrolio, e lo shale oil che appunto spiega il Corriere è quello ricavato da particolari forme rocciose frattumando la materia, per questo dicevo, facendo tremare la terra in un modo un po' impreciso. Dalla Repubblica, l'altra grande questione che riguarda il calcio annunciata nei giorni scorsi, che è quella dell'acquisto da parte di un ricchissimo thailandese del 48% del Milan, quindi piano di questo mister B, scritto B-B-E-E, per prendersi tutto il Milan. Sapete che spesso quando vengono comprate queste quote di poco inferiore al 50%, poi ci sono degli accordi per aumentare. Negli anni successivi, nei mesi successivi, cambiare l'accordo, e qui si spiega appunto come potrebbe avvenire. Una pagina della Repubblica dedicata alle elezioni che ci saranno l'anno prossimo per il sindaco di Milano, ci sono già molte candidature più o meno ufficiali, e qui un'intervista della Repubblica a Pisapia, PD, no grazie, lavorerò per tenere uniti partiti e realtà sociali, ma di nuovo il sindaco Pisapia declina l'invito a entrare nel Partito Democratico ufficialmente e soprattutto conferma che non si ricandiderà sindaco. Invece, in realtà, ieri poi c'è stata un'altra candidatura, quella di Corrado Passera, che è stato ministro col governo Monti. Sapete, è uno dei due padri di quella riforma, di quella misura dentro alla riforma Fornero, che poi è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Non ne fa mai parola, anche se sappiamo che appunto è una misura che è voluta da lui quando era ministro dell'Economia. In compenso si candida a fare il sindaco di Milano. Ieri ha dichiarato a Milano c'è troppo disagio e quindi si rende disponibile con il suo movimento politico Italia Unica. Un'altra persona che si rende già molto disponibile, ma lo sappiamo, non è una novità, però sul giorno non l'ho mai visto detto con tanta chiarezza, c'è un'intervista di Matteo Salvini che dice: ho già la squadra di governo, io sarò un premier, sarò un premier in felpa e smoking. Un'altra affermazione è che Salvini dice: sì, ci vogliono le primarie nel centrodestra. E poi veniamo a sapere da questa intervista rilasciata al giorno che oggi vedrà Berlusconi a Genova. Dalle pagine interne del Sole 24 Ore, un approfondimento sulla Grecia, abbiamo detto un po' il convitato di pietra al G7 di Monaco. Juncker, che è il presidente della Commissione europea, chiude la porta a Tsipras. Il presidente ha rifiutato di parlare con il premier greco. Quindi, purtroppo, nonostante se ne parli da giorni, da settimane, da mesi, non si vede ancora una soluzione per la crisi greca. Dal Sole 24 Ore, un approfondimento del nostro collega Carmine Fotina, che è il super esperto del Sole di tutte le questioni di TLC e anche di televisione, sulla notizia che è arrivata ieri. La trovate anche su altri giornali, ma non, se permettete, con questa precisione, con questo approfondimento anche tecnico, la notizia che Netflix, che è la TV su internet nata negli Stati Uniti, quella per intenderci che ha portato, che si è inventata la famosissima serie House of Cards, che poi in realtà in Italia viene trasmessa da Sky, però è una produzione di Netflix, e ieri c'è l'annuncio: Netflix sbarca in Italia, sfida Sky e Mediaset, quindi accelera il risico tra gli operatori. Ci sono anche in vista possibili intese con Telecom. Dalla pagina interna del Messaggero, un approfondimento forse il più chiaro e completo che ho visto, che fa un bilancio sull'immigrazione, migliaia soccorsi in mare. C'è proprio una tabella con i numeri del fenomeno, con tutte le persone che sono sbarcate in Grecia, in Italia, in Spagna, a Malta, che sono i quattro paesi appunto dove sono sbarcati i più immigrati. Noi in assoluto siamo la prima destinazione. In Italia da inizio anno alla fine di maggio sono sbarcati in 46.500, subito dopo viene la Grecia, 42.000. Vi segnalo dalla stampa un approfondimento proprio sulla crisi di Atene, la crisi di Atene sul tavolo del G7, e poi le altre questioni, cioè l'Ucraina, quella che vedevamo anche sul Corriere della Sera, la questione dello spionaggio americano dell'NSA su tutti, anche su noi europei, l'ISIS e poi ancora il riscaldamento globale. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli, eccoci per l'ultima parte della rassegna stampa. Vi segnalo da La Stampa un interessantissimo reportage di Maurizio Molinari da Gaza, perché sono passati 10 anni dal ritiro di alcune delle colonie israeliane dalla striscia di Gaza, e Maurizio Molinari è andato a vedere che cosa è successo in questi 10 anni, o comunque qual è il cambiamento, e le foto che La Stampa pubblica lo documentano, qual è il cambiamento appunto in 10 anni di ritiro. Tra gli ex insediamenti nella striscia di Gaza liberata dagli israeliani. Ci sono stati tanti interventi anche di Hamas, che è il partito al governo in questo momento nel governo palestinese, e però ci sono anche stati probabilmente anche tanti errori, tante incomprensioni. La questione non è risolta, e Maurizio Molinari ci ricorda, anche appunto spiegandoci queste foto, alcune sono impressionanti. Per esempio, c'è la foto di una gigantesca sinagoga che sorgeva nel più grande insediamento, quando appunto c'erano ancora i coloni. Al posto di quella sinagoga oggi ci sono macerie, e ci spiega Maurizio Molinari che il 40%, gli insediamenti israeliani coprivano il 40% dell'intera superficie della striscia di Gaza. Oggi naturalmente non è più così, però questa è una delle tante questioni sulle quali i palestinesi e gli israeliani non si sono mai davvero rapacificati, tutto quello che è successo nella striscia di Gaza e gli ex insediamenti. Trovo che sia molto utile quando appunto un giornalista così esperto di queste questioni come Maurizio Molinari ci fa un racconto, un riassunto, e soprattutto va a vedere che cosa succede oggi. È una questione molto più leggera, sempre sulla stampa, però proprio da godersi alla domenica, come dico sempre quando abbiamo un pochino più di tempo per leggere i giornali. Caro francobollo, tra aumenti e ritorno all'antico. L'ho trovata solo sulla stampa questa notizia. Verrà infatti a breve ripristinata la posta ordinaria, il francobollo da 80 centesimi, poi ci sarà quella prioritaria che costerà 95. Evidentemente, forse nonostante tutti gli annunci che la posta era morta, ci sono ancora persone che usano la posta, appunto la posta vera, la posta di carta, e quindi è stato anche ripristinato questo doppio regime, mentre sapete per tanti anni, negli ultimi anni, c'era stata solo ed unicamente la posta prioritaria. A proposito di questioni religiose, di tentativi di convivenza, di rapacificazione, una bellissima intervista a Santiago Calatrava, l'architetto Santiago Calatrava, sull'Avvenire, che racconta la sua chiesa, perché infatti è stata affidata a lui la nuova cappella ortodossa che sorgerà a Ground Zero. Sarà fatta solo di marmo chiaro, e così l'architetto spagnolo dice: la chiesa è bianca. Ed è un simbolo appunto sia per il colore sia per il posto in cui è stata, in cui verrà edificata, un simbolo, si spera, di convivenza, di pace, e che non succedano mai più naturalmente atti terroristici come quello che ha sconvolto Manhattan, che adesso finalmente a tanti anni di distanza vede rinascere Ground Zero. Vediamo i supplementi della domenica. Cominciamo come sempre dal nostro domenicale, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Provvisorio, ed è una città di Giuseppe Prezzolini. La citazione è questa: in Italia nulla è stabile fuorché il provvisorio. E questo è il commento di Gianfranco Ravasi. Il sarcasmo sugli italiani è non di rado un luogo comune all'estero, con equazioni spesso offensive: italiani uguale mafia, o beffarde: italiani uguale spaghetti. In questo esercizio si sono impegnati anche alcuni nostri autori, rivelando uno spirito ironico altrettanto feroce. È il caso di questa affermazione del codice della vita italiana di Prezzolini, che scelse però la Svizzera Lugano come sua sede ultima per giudicare il comportamento e la politica del nostro paese, da lui considerato non democratico né aristocratico, ma anarchico. Sta di fatto che l'eccezione, l'esenzione, la deroga, la precarietà sono paradossalmente la regola che governa l'Italia a livello collettivo e personale. La scelta del compromesso, del sotterfugio, dell'elusione di ogni norma ci conduce all'assurdo di coniare una massa enorme di leggi destinate a essere violate. Siamo un paese dove brilla in natura il sole, ma dove è la nebbia ad avvolgere le scelte sociali. E in realtà la copertina vera e propria è dedicata a un articolo di Noam Chomsky, che è la prefazione a un libro di Andrea Moro che si intitola I confini di Babele, il cervello, il mistero delle lingue impossibili, e quindi il titolo scelto I vincoli di una favella infinita, appunto del linguista Noam Chomsky. Memorandum di Roberto Napoletano, il nostro direttore, nostro del Sole e di Radio 24, parte da una lettera di un insegnante di un liceo classico di Imperia, che racconta come la sua scuola vada in pezzi e come naturalmente questa sia un'emergenza, e il monito di Roberto Napoletano veramente ad avviare quella riforma non solo della scuola ma anche tutte quelle misure di edilizia scolastica promesse dal governo, perché non è naturalmente ammissibile che in un paese civile i tetti delle scuole, dei licei crollino. Ma vediamo il supplemento del Corriere della Sera, perché del supplemento del Sole 24 Ore parlerete tanto anche con Alessio Maurizi in Si può fare, e con Armando Massarenti, il responsabile della Domenica. La lettura, la copertina della lettura è un quadro di Sean Scully, che è un artista nato in Irlanda ma residente da tanto tempo negli Stati Uniti, e all'interno vi segnalo per esempio un articolo che io ho trovato interessantissimo, perché sono da sempre affascinata dalla biologia, intitolato Metà dei geni dell'uomo sono gli stessi del lievito, merito di antenati comuni. La scienza infatti sta dimostrando che c'è una vicinanza sorprendente fra noi e gli organismi semplicissimi. La teoria dell'evoluzione quindi non vive più di semplici osservazioni naturalistiche, ma di inconfutabili risultanze molecolari. E l'articolo è di Edoardo Boncinelli, uno dei più famosi genetisti italiani. Poi un articolo che ho trovato molto divertente di Stefano Bucci, inviato ad Atene, che ci racconta l'impresa di Ryan McNaught, che ha con 120.000 mattoncini Lego ha ricostruito l'Acropoli, questa rinascita un po' dei Lego a cui abbiamo assistito, no? I Lego venivano dati per morti, in realtà sono ancora vivi e vegeti questi mattoncini, ce ne sono tantissime versioni, c'è stato persino un film, ma questa è veramente un'impresa, appunto rifare l'Acropoli con i Lego ci ha messo 300 ore questo articolo. E poi un'intervista, forse lo ricorderete, il libro l'avevamo segnalato anche perché lo segnalava con un lungo articolo il supplemento del Manifesto della scorsa settimana, è questo romanzo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale di Anthony Doerr, e questo autore è stato, il libro si chiama Tutta la luce che non vediamo, lo ha intervistato Stefano Montefiori a Parigi, e appunto ci racconta come ha vinto il premio Pulitzer con questo libro questo autore, e ci racconta come dicevamo del resto anche settimana scorsa, come ambientare un romanzo durante una guerra ci fa capire qualcosa di più sulla guerra, oltre che naturalmente raccontare magari una bellissima storia che vince il Pulitzer, e ci aiuta a riflettere sulle guerre del passato. Sempre dalla lettura, un'altra bella intervista di Valentina D'Urbano a Richard McGuire, che è un illustratore, collabora anche con il New Yorker, ha appena pubblicato un libro tradotto anche in Italia dalla Rizzoli Lizard, una cosiddetta graphic novel, e qui racconta la sua passione naturalmente per il suo mestiere, quello di illustratore, ma anche come è nato questo romanzo. La Repubblica, il supplemento della domenica, invece è dedicata a un'intervista a Roger Waters, mitico membro dei Pink Floyd, leader dei Pink Floyd, che la Repubblica la intitola "Ho ancora un muro da abbattere, le ingiustizie, la musica, Obama, l'Italia", è un film che si intitola The Wall, intervista esclusiva al leader dei Pink Floyd dell'esperto di musica di Repubblica Enrico Franceschini. Un altro articolo bellissimo dalla Repubblica è di Alberto Manguel e si intitola "Salviamo la curiosità". La sintesi un po' di questo articolo è costantemente stimolati e sempre connessi. Oggi rischiamo di non porci più domande, eppure la storia e la vita dell'uomo nascono da un primo grande interrogativo: perché? E poi la serie che sapete mi piace molto, Straparlando di Antonio Gnoli, queste lunghe interviste su due pagine, oggi all'artista Luigi Ontani che come sempre in queste interviste riflette un po' sulla vita, stimolato dalle belle domande di Antonio Gnoli, ma anche ricorda gli amici del passato, in questo caso per esempio Pietro Manzoni. "Vivo ricordando Manzoni e gli altri amici martiri di chi voltò le spalle all'arte". Non ho tanto altro tempo. Alias del manifesto, questa volta la copertina è dedicata al libro di Serena Vitale su Majakovskij, che pare, lo stanno recensendo tutti, pare molto bello, "Il defunto odiava i pettegolezzi", un libro di Adelphi. L'ultima segnalazione che ho tempo di farvi, un grazie a Filippo Paoreggi in regia, e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.